male che la puoi fare, è andata così. Tommaso pure un cannello ha fatto nulla. Niente, altro, niente, neanche un millimetro, niente, zero. Perché di solito c'ha dei blocchi ciate dentro obbligatori, capito? Ne esce quello, ne esce il tubo. Sicuramente sono quelli che si sono bloccati. Visto quella manda, cioè va andando, l'ultimo pezzo è strozzato e l'altra entra da sopra. C'ha l'invito, maschio e femmina, no? Ma nulla, non c'è da fare, ma neanche una, dalla più grande alla più piccola non c'è. Anzi, l'unico pezzo che si è mosso è il radiale che prima era funzionato, l'ultimo pezzo proprio. Quello ne è uscito addirittura, però quello mi va anche bene perché gliel'ho cambiato, gliel'ho messo nuovo, anche più lungo, così posso avere possibilità di tararla meglio. No, quella manto faccio così obbligatorio. Se no non esci di gambo da rendere. No, io vabbè, se io ero... so quanto era, mi sembra che sia 6,80, adesso non mi ricordo, ce l'ho scritto da che parte, che va diciamo da sopra la molla fino alla fine dell'antenna, no? C'è una misura, la faccio così e la blocco e poi bisogna provarla, ma se con la bobina magari ho fatto qualche variazione, posso correggerla magari dalla cordata da su. C'è la spirale, c'è da tirare su. Posso correggere anche dalla spirale, la spirale è come che stai allungando o accorciando l'antenna, Però se non mi basta di lunghezza, che sono già al massimo, posso estendere il radiale da su, capito? Se mi manca altezza. No, è impossibile. No, a quanto va io, a quanto ho visto io. Si vede che va bene, gli metti un po' di vulcanizzante. Però ormai lì neanche l'acqua entra più, è tutta sigillata proprio dall'ossido. Neanche facette ci vogliono secondo me, che non si muovi. Già lo so già. Mi sta venendo un po' di abbiocco, lo capisci? Tutto il giorno mi sono rientrato adesso, mi ha fatto una doccia, ho mangiato qualcosa e ho acceso un po' la radio. Mi sa che vado a riposarmi un po', tanto mi aspetta domani di nuovo. Lavoro presto, dai, un abbraccio a tu, stai sereno, stai tranquillo e vedrai che si risolve tutto, ok? Testa alta sempre. Me lo auguro perché guarda, io non sono sicurissimo ne sono, non va bene accusare le persone così perché non va bene, perché sono sicuro di quello che faccio, sono sicurissimo. Poi no, non frego nessuno, io non prendo in giro nessuno, non mi permetterei mai. Appunto, vedrai che... quindi è una buccia che è da buona, ci sgonfia subito, vedrai. Cercate di risolvere il problema, ma tranquillamente, però senza incazzarti, intanto non risolvi nulla, anzi, pur mai dalla parte della ragione, facci dalla parte del torto, quindi stai tranquillo che si risolvono le cose, dai, un abbraccio, buonanotte e dormici su, dai. Vabbè, comunque io me ne vado a letto, sappi se stai ascoltando, io me ne vado a letto con la coscienza pulita, perché no, non ho fatto niente di male, e chi l'ha fatto non è neanche quella persona, un'altra persona, e quindi no, non è possibile, cioè, io sono già la coscienza pulita, poi non ne so. Cioè, sono onesto, no, non ho mai rubato niente a nessuno. Ok, buonanotte. Buonanotte a tu, dai, ti aggiorniamo, un abbraccio, ciao. Ci siete, cambio. Hola, c'è qualcuno? Buonasera. Ok. Hola. Che? Buonasera. Ok, vabbè. Ecco, e ora? Avanti, buonasera. Io sono. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a lei, dottore. Cappa. Dimmi tutto. L'hai capito, sì. No, non ho capito proprio niente, in verità. No. Niente, non ho capito. Ma tu mi credi quello che ti ho detto io? In che senso, scusa? Non ho capito niente. Io ti ho preparato il campo, lì ci siamo, tu vedo 15 metri, posso essere 15 metri, sono 20, ma è tutto. Poi dopodiché ci sono i due PL, li ho comprati, li ho pagati, il campo non ti ho detto niente, quindi basta. L'unica cosa di questo sono i PL, non ti ho detto nient'altro. Non lo so, ti sei incazzato, cazzo, boh, a un certo punto, come se devo gratis a un certo punto. Tutto lì. Solo quello lì mi ha dato fastidio, non per altro. I capi te l'ho fatti bene. E come si deve, cazzo, con cose, con strutture ben fatte, eccetera, eccetera, in modo da sistemare, cazzo, che dovevi fare il lavoro oggi, mi sembra, se non mi ricordo male, la verità, per mettere la tenda sopra il tetto e poi ce la mette giù. E così ho fatto, basta, non ho fatto altro. Non è quello il problema, non è quello. Quello ti ringrazio, grazie. Però io te lo posso giurare. Guarda, cazzo, che non vedo domani mattina che non mi alzi dal letto, te lo posso giurare. Cazzo, che io, quello che tu mi hai detto, io ho fatto. Te lo posso giurare. Se poi quella persona là fa picche, io cosa ci posso fare? Ma io, cazzo, guarda, con dove ti trovo, ti dico, non ne ho problemi. Non ho, guarda, te lo dico, non ho problemi. Cazzo, Antone, tu a me, devi credere a me, devi credere. Perché io non ho nessun interesse, io a me non dico niente, perché io ti ringrazio, cioè perché io riconosco, io ho sempre riconosciuto le cose. Papà, tu, basta, finito, io problemi non ne ho. Io guarda, ti posso dare la garanzia, Antonè, ti posso dare io la garanzia che io ho preso e ho fatto. Tu io ti ritrovo, ti do quello che è, non è un problema per me, qua, te lo giuro. Comunque non è via più PL da Fusaro perché sono difettosi, non mi avvitta. Lo sanno tutti quanti, lo sanno. L'ho comprato anche io, te lo dico io la verità, li ho comprati anche io. Non mi avvitano, gliel'ho anche detto, glielo. Te lo faccio vedere, non ne ho problemi, ma non è un problema, futti dinni. Domani lo sistemo io, ne tolgo, ce ne ho qua, buttati, ne ho che sono buoni, che avvitano, me lo sistemo io. Non ne ho problemi. Antonè, credimi, cioè adesso poco fa mi sono un pochettino adirato, mi sono adirato, perché credimi che io non l'ho fatto, cazzo, credimi con cuore, qua, se non mi credi, non sono di quelli, non sono, te lo giuro. No, guarda, ascolta, fai la cosa, io... Non ti credo, vabbè, non ti credo. Quindi a un certo punto io ti ho pagato il debito che dovevo pagare, quindi a un certo punto guarda, fa una cosa, ti ho regalato il capo, ci siamo, mi hai pagato il PL, ti ho dato 50, e tu mi hai detto, non a me, hai detto solamente a Simona, non hai detto a me, la verità, che mi bastava solamente quelli, quindi basta, a un certo punto, chiuso tutto, basta, mi dispiace, è chiuso tutto, non lo so. Però per la mia fiducia, ti giuro, ce ne passeranno uno, due anni, forse tre, quattro, cinque, vedi che sono. E come stasera mi ha risposto Simone a me, a un certo punto. quindi padre sei anche a casa mia, ti hai preso il carro che sono più di 20 metri, quindi c'è anche il conto, gli vedi no perché se dici no insomma, mi incazzo, quindi sono 20, cioè tu vuoi 15 metri, ci ho dato più di 20 metri, quindi a un certo punto, cazzo, a un certo punto ho fatto un regalo, quindi non lo so. La verità, guarda, io sono deluso, vabbè, sono veramente deluso, guarda, a un certo punto, quindi non lo so, vedi tu cosa vuoi fare, non lo so. Antonè, queste cose non vanno bene, non vanno, io te lo dico di cuore, Antonè, fai più dare sul dagli altri, ti do sempre a te, ti do, perché almeno sai, però guardati bene, guardati bene le spalle, tu non stai credendo a me, non stai credendo, che io sono una persona, che non, cioè l'ho contato 4 volte, cazzo, proprio per dargli giusti, e tu mi stai dicendo che non credi a me, ma cosa cazzo siamo dicendo, ma stai scherzando, o veramente, cazzo, cioè, veramente, cazzo, cioè, voi che non, cioè, ma stai scherzando, però ho detto, ti ringrazio per quello che tu hai fatto per me, io ho preso i soldi, ho pagato, Antonè, cazzo, cioè, più chiaro di me, tu non credi, ti do una ghida, cazzo, ghida, ci fate i cazzi soldi e non credi a me, ma che cazzo stai dicendo? Cazzo mi chiedo se cazzo tu conosci da Sassari, io non sono un carriaggio, ma cosa cazzo stai dicendo? Ma muffendisi io cosa? Io sono una persona seria a me, e lo sto dicendo davanti a tutti, lo sto dicendo, non ne ho problemi a me. Antonè, tu stai sbagliando, tu con me stai sbagliando pienamente, io problemi non ne ho, e non ne voglio avere con nessuno, non voglio avere, io sono di quelli che prendo i soldi e pago, non ho problemi, cazzo, te lo giuro, cazzo, te lo giuro dove vuoi, io non ho fatto quello, poi se vuoi credere a lei, credi a lei, perché magari ci sei tanti anni e credi a Edda, però attenzione che cazzo la coscienza io ce l'ho pulita, non di certo lei, ce l'ho pulita io, non di certo lei, perché io se l'avrei data a te ce l'avrei avuta ancora più pulita la coscienza, perché io quelle cose non le faccio, io non gioco sui soldi, non gioco sulle cose, comunque quanto ti devo in tutto, dai, la tiriamo qua, perché io sono una persona onesta, onesta, io queste cose non le faccio, non sono un pezzo di merda, sia ben chiaro, io non sono un pezzo di merda, io cioè, ho sempre dato tutto a tutti, cioè le cose molte volte mi hanno anche regalato, io volevo anche pagarle, ho detto quanto ti devo dare, mi hanno, cioè, non è giusto, non è giusto, io lo so che tutti diverso di lei, però lei ha commesso una cosa che non doveva commettere contro di me, basta, cioè Antonè renditi conto, io sono onesto, sono, non mi sono mai comportato male con nessuno, non mi sono, e chi mi conosce lo sa a me, chi mi conosce lo sa, comunque tu pensa l'argomento di voi, chi mi conosce lo sa, cioè si so da da, cioè se io devo dare do, non ne ho problemi, non ho problemi io. D'accordo, non c'è problema, comunque vi vedo tutti di fronte, uno all'altro, così almeno tolto il problema, non costa niente, a parte, comunque sia. D'accordo, ti va bene a te, sì, penso di sì. Io sono pronto a giurare io, guarda, l'ho contato 4 volte, gli ho contato i soldi. Io male che ho fatto non fotografarmi come faccio sempre, se ti avete detto un cazzo mi sta a putti, tutti gli ho dato i soldi. Mi sono troppo fidato, mi sono. Però ne ho trovato le scottature, perché io di certe cose me le fotografo col cellulare, capito? Ho fatto male perché era in fretta, ero. Se no me l'avresti messa in culo, non ti preoccupare. Perché io non sono buonacco, non so, sono una persona troppo troppo sveglia sono. Mi sveglio la mattina presto per prendere per il culo agli altri, perché gli altri non prendono per il culo a me, non che io prendo per il culo agli altri, capito? Io mi sveglio la mattina presto per non farmi prendere per il culo agli altri, capito? Ehi, d'accordo, sono d'accordo anche io con te, per quel motivo lì non c'è problema, quindi non c'è problema per quello lì. Io comunque sono onesto, io stanotte dormo tranquillo, perché non ho problemi. Comunque Antone, se ti ho anche qualcosa per... non c'è problema, dimmelo qua a me, 20 euro, ma chiediamo qua, non c'è problema, sabato vengo, ti dirò. E va bene. Non è quello il problema, ci mancherebbe, cazzo. Guarda quanto cazzo me ne frega a me, guarda. Io cazzo non ho problemi di tiro, se entra in radio te lo posso di dare, dove? Aggiunto, mica se non ti vedo, vengo lì e ti do qui a mano, gliel'ho detto stasera, perché mi ha aggiustato, mi ha fatto un caricabatteria del computer, mi ha fatto, me. Perché siccome non abbiamo avuto cosa di vederci, me l'ha fatto così veloce, non ci abbiamo avuto cosa di vederci, mi ha detto mica vengo, ti cerco, ti do i soldi, gli ho detto. Pensa a Dugan, tu cazzo, cioè, quanto io sono onesto, e se entra adesso, te lo dice lui, mi te lo dice, non io, lui te lo dice. Pensa tu quanto sono onesto, cioè a me cosa cazzo mi ne frutti, mica un vergaggio lì di lamme. Cioè, io 300 euro alla settimana, mi sono 1200 euro al mese, come no se mi ha fatto un cazzo a me di dare di nava niente, per dirlo a te, mi lo dico davanti a tutti, lo dico. Quello già lo so, non ti preoccupare, tranquillo, non c'è problema, ho capito, solo che è un casino, adesso c'è una cosa all'altra, non capisco una fanculo, né uno né l'altro, la verità, quindi, meno male che a Dio, io ero fuori, dopodiché, quando sono venuto a prendere il cavo, in pratica, io voglio solamente pagare i 2 PL, basta, non voglio essere pagato quanto. Ci sono 20 metri di cavo e che sono LG 213, anzi LG8 per esattezza. Quindi voglio pagare il cavo e basta, non voglio pagare un ritardo. Tutto lì, hai capito? Basta. Sono 2,50 euro in pratica, a PL, sono 2 PL, mi servono 5 euro, non voglio altro, ma non mi serve nient'altro, il discorso è quell'altro. Il resto, il cavo te lo puoi tenere come vuoi, fare quello che vuoi, guarda, non me ne affronto proprio niente, la verità. Il problema che io ci credo te li ho dati, è come se te li ho dati, Antone, io lo vado a lei. Ma se li si fa i cazzi suo, io che cazzo ci posso fare? Scusami, colpa ne ho, se uno si batte i cazzi suoi, io la colpa dove ce l'ho? Scusami, io faccio la guipa secondo te, io vabbè, non ne ho problemi, quanto è 3,50, però la differenza la chiudiamo qua, no, non ne ho problemi, me l'ha fatto un cazzo, cioè... Cazzo, ma stai scherzando? Cioè, se io ti do qualcosa, la bici burueta gli ha visti. E noi gli ho dato in mano, la bici pulita, gli ho detto, va bene così, gli ho detto. Sono 2,50, 2,50, gli ho detto, costano 2,50, gli ho detto queste testuali parole. Se poi lei si fa i cazzi suoi, io mi vado a guardare di quel pannaggio. Scusami, Antone. E cazzo, non c'è da me, non c'è da te pure. Vabbè, non è un problema, però la differenza, quando andiamo a fare un gioco, diamo una birra e la chiudiamo qua. E vabbè, ci beviamo una birra, qual è il problema? Non cambia niente, che mancherebbe, non costa niente, la verità. Quindi sono una cosa totalmente differente, quindi, a un certo punto, va bene così, da. Billy, io sto male, ecco. Ti lasciamo in pace. Ti sente, Billy, non è che non ti sente. Perché io non sono fatta. vabbè, dai, chiama Rangiuglio con Antonello, non ti preoccupare. Quando ci troviamo già chiama Rangiuglio. Ok, d'accordo, non c'è problema. Senti, io non voglio litigare con nessuno perché io sto male. Io ho la trombosi. Lo sa già, ha capito. Quindi... Io sono a tremarella ancora. Io sto male. Ok, lo sa già, cazzo, lo sa già, non ti preoccupare. Sì. L'ha detto poco, 2 minuti fa, quindi siamo a posto. Io sono malata, cazzo, se mi vuoi ammazzare, ammazzami. Sta tranquilla, non ti preoccupare. Marca, ok. Cazzo! Si finisce qui la questione. Ma si finisce! Allora vai a dormire tranquilla e poi chiama Rangiuglio con Antonello, non ti preoccupare. Ok. Già lo so dove trovarlo, già ci arrangiamo noi. Ma non lo mancarmo! Sentite vai! Ma stai scherzando, ma ci mancherebbe altro! Ma ci mancherebbe altro, io non so cudichissi io me. Cioè, non sono di quelli lì, ma non ho mai fatto niente forse. Io offro una birra, io do quello che devo dare e siamo tutti a posto. Ok. Ok, tutto a posto. Ciao. Tutto a posto, sono stato acquisto. Mamma mia, cosa hai detto? Non è un problema, ma non mi fa né caldo né freddo, 1,50 neanche 10. Ma non ti preoccupare, già ci arrangiamo noi poi, già lo sai. Tanto so dove vai, quindi ti bevo una birra, cioè faccio quello che devo fare, tutto a posto, ok. E la chiudiamo qua. Di una non ho capito una, no. Cioè, quando due tu e due io, quindi siamo a posto, quindi a un certo punto siamo a posto, fregatene. Non ve ne è problema, Antonio, il problema è che cazzo mi imbestialisco quando le cose non vanno bene. Ma comunque non ti preoccupare, già non c'è problema. Qui si passi si passi sabato, te ne offro più di una. D'accordo, non c'è problema, tu non ti preoccupare per quello, che lo sai, piano piano. E a me? Cazzo, ci conosciamo tanti anni, porca della miseria, cazzo, dobbiamo afferrarsi, no? Ma secondo me non può essere che ci dobbiamo zuffare. Cazzo, al minimo ci conosciamo quasi 20 anni. Cazzo, è da fare con te. Aspetta, te lo dico, Simona. Ah? Cos'è che volevi tu, Simo? In che senso? Va bene. Io? Una bottiglia di whisky! Almeno muoio! Hai capito? Almeno muoio, cazzo, che siamo a posto. Poi, cosa vuoi? Poi basta! Ormai è la mia morte! Visto? Abbiamo fatto il suo coso, a posto. Cappa, Antonio, domani mattina porto il saldatore, lo dissaldo quello lì, e li cambio quel cazzo, dico, non ci abitano. Cazzo, lo sanno tutti comunque, gliel'ho anche detto a loro, non ci abitano gli apparecchi. Capito, Antonio? Domani mattina lo dissaldo, li metto in quello nuovo. Qualcuno qua. Che cosa? Quello rosso, ma quello bagno è? Ma stai scherzando, cazzo, che. Cazzo, quello è un BPL mio, lo sai? È di uso quello. E scendi domani mattina, ti faccio vedere, non c'è vita. Cioè, lo sono tutti, cazzo, è capitato a tutti qua, magari a te non ti è capitato. Tu non hai provato a evitare l'apparecchio. Cazzo, io ho provato oggi, manco per la mia vita, né l'antenna, né l'apparecchio, né niente, perché era una cosa troppo corta, no? No, il coso è buono, il flash è buono, capito? Il coso è buono, però non c'ha vita, Si devo cambiare quel barilotto dove ha vinta. Non succede niente, la tira glielo faccio io. Ah vabbè, allora sì, fai tu quello che vuoi, cosa vuoi ti dica io? A un certo punto, se lo faccio io non cambia nulla. Va, te lo porto, te lo faccio vedere. Non ti sto dicendo bugie, metti, porto proprio cosa. Non c'ha vita. Cioè non anda, compreso. Sto dicendo perché non è successo, è successo a me. Gli ho comprato una partita un po' di tempo fa e ho dovuto cambiare di cosa perché non ci abitava. Non mi abitava l'apparecchio, per uso così zende. Ok, sentiamo un po' la cosa, poi fammi sapere, dai. Come viene a tirare, vediamo un po' come la questione, là. Ok. Infatti te lo sto dicendo pure per testa, è attento perché poi si trovano un problema che ho trovato io, ma non l'ho trovato solo io, mi chiedi in radio pure, è successo a tutti. I PL che c'è cosa sono buoni di tutto, però non abitano gli apparecchi, mio qua ne ho, perché duro ne ho, domani lo porto, gli cambio solo il pezzo, capito? Se gli cambio il pezzo poi va bene. Solo quell'affare dove ha vita, capito Antone? Infatti ti sto mettendo in guardia, stai attento, se ne hai comprato una, se beh cosa non ti avvitane. Prima di saldarli, occhio che usci di testa a me. Ehi, a posto, non ti preoccupare. Bianco, per me, un secondo, sto parlando con un coso, con un'amica mia, 2 minuti. Sono a 5, allora. Ciao, mi andate. E chi è avanti? Chi è avanti? E io sono. Ah, ciao Antonio, buonasera. Buonasera. E chi? Non si entra due ancora. Stavo facendo roba in casa, la verità. Non riesco a capire perché io l'ho provato così, vabbè, no, non sono riuscito a abitarlo. Però già così dovrebbe andare. Mi sono aumentate le stazionarie. Non è possibile. Guarda che il capo è a posto. Uno e anche l'altro il piede, quindi è strano, No, perché non è abitato. E cosa sto dicendo io? Uno è uguale all'altro, non cambia niente. Quindi a un certo punto figurati tu. Però ho notato una cosa, che quelli più bassi li sento, senza fuci, senza casino. Ma li senti allora quelli più bassi, con l'antenna che c'è adesso, quindi è più sensibile più che altro. Allora praticamente sento quello più basso ma non sento il casino, capito? Invece prima si portava un sacco di casini. Cos'è questo? Allora ti vuoi mettere, buonasera. Buonasera, avanti, chi è? Non ho capito, chi sei tu? Sender, dove sente? Sei Urus? Perché so wie Ja, fast, du hast recht, ja. Es ist schade, dass die nicht besser Deutsch sprechen oder mir nicht besser Italienisch, ne, weil die Verbindung... Ja. Hola, mein Freund, hola, mein Freund, scusi, stai siamo fatti mai Italy. Oder si più, hola, hola. Also, dass das jetzt heute nicht mehr funktioniert, verstehe ich auch. Nobel, nein, no, habe ich nichts verstanden. Niente da fare, quindi, a questo punto, se va bene in culo. Appunto, se va bene in culo, da, allora io vado a dormire. Ciao, buonanotte. Ehi, ok, ciao, Anto, buonanotte. Ciao, avanti. Prego. Prego, avanti, buonasera, prego. Allo, io sti, so. Buonasera, chi is Italia, Sardinia? Ja, Roland, ich sage mal, da musst du mal von dem 8-mal-linken unteren Regler auf 12 unteren Regler auch auf 12 Uhr. Man muss doch mal in gute Lautstärke unterhalten. Hallo, okay. Oh, da macht es dann richtig Krach und richtig Laune und dann kann man da den dritten von rechts ein wenig weiter aufmachen. Dann ein wenig. Okay. Und falls es noch nicht lang kommt, dann sind die Regler, dann ist das so, da haben wir noch mehr und ich kann aber noch mehr Gas geben. Dann schauen wir also mal, ob es wieder ruhiger wird. Ganz ruhig zu sein. Ja, so kommt der nächste von der Serie. Ja, der Fall ist so, dass Anderson ist es genauso. Hallo, hallo? Bist du erscheinen, da wird's bestimmt rum. Ja, mich der doch was du alles hörst, um Gott zu sagen. Hallo, hallo? Sono un po' di colore duplex. Allora, mi cotto le tali? Mi gibt hier kaum Wutsch, look on it. A parte se ho la France, mi dico di l'Italica per? Allora, allora? Un grande Italina. Mamma Brumalina. Questo è più grande. So ein kleiner Italiener. Ja, das ist ja cool. Jetzt, ne? Wir haben ja vor kurzem einmal irgendwie einen Holländer da gehabt, ne? Und da hätten wir den dann erbracht, ne? Aber der war halt leider auch nicht. Bei. Ja, aber wenn du Leute brauchst, die Ausländer, dann sind sie nicht da. So schaut aus, ja. Wenn du das brauchst, sind sie nicht da. Und der Holländer, den wir da gehabt haben, der war sauber da gestanden. Also ein sauberes Radio und das sauber herstellenweise, ein bisschen was verstehen. Die Frau hat ein A mitgebracht, also ich bin so ein bisschen, aber mit dem Vorstehen. Naja, weil man da holländisch wundert, wie bei uns, dass dann plötzlich schwerer Verbunden, ne? Da ja, steckst halt nicht drin. Also wie der Mann steht da in Norwegen war er? Norwegen, glaube ich, ja. Hallo, hallo? Ma cosa c'è stanotte? La notte dei lunghi coltelli? Me ne sono accorto infatti. Ciao Marco, mi ascolti bene? Sì. Ottimamente, Antonè. Sento sì, segnali in FM, eccetera, eccetera. Ui, ui, ui, che caldo, non se ne può più. E quindi ti saluto Antonè, sono andato per un saluto e basta, mi attacco un po' alla televisione. Ho capito che la preoccupazione è Simona, la verità, in tedesco, quindi parlava con gli amici suoi, quindi a un certo punto. Adesso, dopodiché, è finito tutto. A un certo punto non si è visto più niente. Ho sentito un saluto. Chi è l'altro? Gianni? Dell'associazione. Dell'associazione. Oh, ya. Yeah. Ciao, già. Sì, stavo sentendo Simone, faceva di ex. E lei è di confine, è al confine con l'Italia, e cos'era, l'Austria o la Germania, Antonè? E mi ricordavo anche il nome del paese, una volta me l'avevi detto, tipo Rasun Antarsel, una cosa del genere. Cosa c'è il vostro? Germania. Ehi, ehi, stavo ascoltando anche i camaraden. Vedi, figura di tu. Infatti, vabbè. Sicuramente non mi sentiva, un paio di volte gli ho detto Yankee go home. Io gli volevo mettere un discorso di quello che con i baffetti. No, io so che avevo mai fatto. Io ci volevo mettere il vino della Guata Rossa. Pochi anni fa. Beh, già, sei un po' strappato di modulazione, probabilmente la ripetizione è eccessiva. L'inno dell'Armata Rossa, hai detto. Dico, cazzo, era di mezzo ai bici, ho fatto un paio di volte una chiamata, what's in American Boys, ha detto, Yankee go home. Das war schon jetzt bestellt und alle zwei. No, io ero, stavo finendo di cenare, quindi non ero proprio fisso qua, dai, stavo andando e venendo. Va bene, peraltro ero ancora attaccato qua. Ma ho sentito che c'era anche Antonello. Eia, ciao, buonasera. Ciao Antonello, in FM, come mai? È perché per darmi un giretto più che altro, va. Eia, mi sono dovuto spostare per ascoltarvi bene. 27072. Gianni, 072 è vero, lì c'era da fare sempre quell'operazione, però non mi è chiaro cosa bisogna fare esattamente. Se è solo questione di frequenza o di, come dicevo io, la banda passante, ecco. Non si scrive. Sono questione di magari di trimmer, posso provare a centrarmi, no? La carrona così con l'Uranus, ma se c'è da mettere mano alle bobine la goduto così, dai. Sua nostra di dire. Vabbè, io un po' tutti i 3.900 hanno quella cosa lì. Sono riuscito a migliorare leggermente la situazione, ma dai, intanto il grosso 90% del traffico lo facciamo in AM, dai, noi in Italia. Venga. Ok, no, ho sentito Antonello facendo una chiamata in francese. Ehi, chiamano in francese i crucchi però. Si sono locando in inglese. Ui, ui. Vabbè, Antonè, già vi siete calmati, dai. Sempre tu sei a fare casino, Antonè, sempre tu. Sto scherzando, ci mancherebbe, quindi. Io così già lo sai come faccio, io lo sai anche tu, quindi a questo punto, il caso degli altri, no, mio, la verità. No, Antonè, era una battuta, chiuso il discorso, era una battuta. Fine, Mino, per carità di Dio, non è bastato il teatrino di oggi. Gianni, riprendi. Venga, guarda, io sono appena rientrato. È una cosa forse automatica. Ho acceso il PC e poi ho acceso il barattino e ho sentito un po' di lavoro, per cui mi sono infilato così, come se non ci fosse un domani. Come ho detto un amico che parlava di futuro, io l'avevo preso in un film e ho detto futuro, non c'è futuro. Cosa stai dicendo? Vabbè, è lunga da spiegare poi. Da Riesma Hoffmann wahrscheinlich. Ja, vor allem die viele Suche. Alcuni di questi arrivano un po' disturbatelli. Quelli che si salvano arrivano 7, massimo 8, ma proprio per carità, cioè per grazia ricevutami. Ah, va? Dimmi. Come, Antonè? No, ho capito, dimmi tutto. No, io non ho capito, mi hai detto qualcosa di segnali ricevuti, stavo dicendomi, che arrivano 7, massimo 8, di più non vanno qua. E anche di più non sono l'altro, 9, 9, 10 addirittura, quindi figurati tu, a un certo punto. Quanti hanno fatto? Anche non fai qua. Hola, my friend, Germany, switch station, a Farima, Italy. Facciamo come fanno loro, hola, hola, Coca-Cola. Così? Così fanno, hola, hola, Coca-Cola. Spasiba, spasiba. Compagni. Già ve lo scendono il sonno, a vedere chi gioca a scegliere le cartoffie. Aspetta, cosa voleva dire spasiba? Grazie era, o sbaglio? Ehi, affermativo. Ora Coca-Cola, ora Coca-Cola. Poi con questi non si capisce, con gli spagnoli non conto, con questi non si capisce una mazza, se non sei di lingua madre o comunque bilingue. Però qui c'è un cazzo locale, boh, chissà dove sono. Poi sento gente anche in AM, cioè stanno uscendo male loro in FM, io sento anche roba in AM. Vabbè dai, comunque l'ora è tarda, 10:30, no, non è proprio così tarda. Ah, Antonello, mamma mia, quest'estate mi ucciderà. Cosa si vive tutto? Antonello, ma col capo a calcello? Ah? Dico, stai utilizzando il capo? Eia! di prima? Per il 104 sto usando. Ma lì vabbè. No, vabbè, qui ci va tutto incentrato. Devo spostare un po' il controllo fine, dai. Tra 27072 e 073, dai. È fatto così. L'ora non si è più preciso, a dire la verità. Ho capito. Io sto usando uno dei President, la cui deviazione dovrebbe essere giusta. Va bene, è tutto qui, dai. Poi qualche fatto in più, ma era giusto per vedere se rispondevano i camaraden. Eh beh, l'ha fatto lo Giosem. Si chiama President, ma visto. Presidente Taylor, Taylor quarto addirittura, però abbiamo fatto il Taylor, Taylor 2, Taylor 3 la vendetta, quindi Fred Krueger, quale sciaghe, Taylor quarto, piccolino va bene per macchina, piccolo ma non troppo, per macchina va bene, solo che sono sempre rumorosetti questi apparecchietti del... questi in SM tipo, tutti uguali, tutti. 3009 non si batte, in macchina l'ho sempre detto. Oh, yeah. Tutti dice presidente, lo grandiolino, tutti massoni. Cro cro, ci hanno fatto anche baracchini. Vabbè, la pace le cazzate, dai. E anche io da qualche passaggio e poi di modo. Yeah. Chissà quando se faranno. Perché adesso li stanno finendomi i nomi dei presidenti, cioè magari di questo ne hanno fatti quattro. Per esempio non credo che esista un Carter, un Nixon, poi Nixon, vabbè, non so, certi hanno fatto un po' più casini. In futuro vedremo se ci sarà molto in futuro il presidente Bidet, il presidente Trump, capito, col ciuffo biondo. Devono fare ancora Bush Senior e lo figliolo. Non so se hanno fatto il Reagan, boh. No, mi pare di no, credo che siano sempre orientati verso i presidenti di antichi, penso prima di Truman persino, Taylor, non so nemmeno di che anno è, non lo so, però roba vecchia, vedi foto bianco nero un po' inizi Novecento, dovrei guardare. Ehi, dove è Antonè? Via due secondi, aspetta che arrivo. Ah, io passo di Naeme che mi sta dando fastidio la FM. D'accordo, ok, Naeme, da. Ui, ui, da lieber selbe Stelle, das war zwar gesehen habe, der komische Gartenschlauch. Minchia, minchia, minchia, non bollente di più, Gianni, non hai idea, al calor bianco questo linaretto. Siamo qua, oltre Santiago 9. C'è una bella ricezione, è bello aperto lì, mentre io c'ho a ridosso tutta questa zona. Dicevo, il 203, Budendi, da non poter tenere la mano, ma roba da ciogliere le spagnature, mi ero dimenticato di attivare la ventola. Cosa hai attaccato, il padellino? Sì, fa così, tanto per fare sindroma. No, perché da poco fa che è modulo, quando ho salutato Antonello, e questo, mamma mia, sente anche un po' di odorino di surriscaldamento. E gli ho messo subito la ventola per farlo raffreddare. Sì, nonostante abbia le alette, si scaldano troppo questi affari. Questo modello, poi non so gli altri più grandi. Oia, eia, sì. Allora. Sto mettendo tutto a piombo qua. Sei riuscito a toccare appena appena il 2009, dovrei più o meno fare la stessa cosa anch'io in FM, dai. Quando c'è un po' greggio di gara, al limite mi dici dove devo smanettare. Sì, dovrei ricordarlo, sì, sono una bobinetta per la ricezione. Tanto l'apparecchio è mio qua, cioè questi 3009 sono miei. cioè non devo rendere conto, li regolo, infatti ha migliorato tanto, non devo più spostarmi troppo a sinistra col carifer, anzi forse non devo spostarmi affatto, però quello che mi premeva era la banda laterale, che dovevo spostare il carifer troppo a sinistra, troppo veramente. Allora, comunque ho preso una cantonata io, il President Taylor, Zachary Taylor, caspita, stiamo parlando prima della guerra di secessione, cacchio. Ehi, un po' credo una muffa, dai. Sì, infatti c'erano soprattutto quei nomi dei pionieri, questo magari era pure, vediamo, sudista, sai, quelli un po'. Virginia, non mi ricordo se era abbastanza a sud, quelli pro schiavismo mi dell'epoca. Mamma mia, che periodo. Vabbè, tutto sotto la regia della corona d'Inghilterra, come sempre. E poi ci l'hanno mandati. Cosa volevo dire? Mi è sfuggito. Antonessi ancora? Senti come strepitano. Ce ne so. 11:20. Vabbè. Stiamo per chiudere, dai. Ehi, sapete se sta piovendo? Perché io sono barricato in casa, c'ho tutte le finestre chiuse, eccetera. No, negativo. Io sono uscito, mi sono portato il paracqua appresso. Però tornando a casa tutto tace. C'è quest'aria calda, molto umida. Boh. A meno che non faccia tutto stanotte, però nessuna avvisaglia per il momento, neanche un guteggio. Cappa. Bene, già, gira. No, dove volevo andare a parare? No, che c'è un conoscente che è di un filo americano folle, no? È proprio idolatra gli Stati Uniti, no? Nonostante tutte le contraddizioni, eccetera. Dice, no, ma negli Stati Uniti ci sono stato, si sta bene, se sei bianco e benestante stai benissimo, se sei bianco e benestante. Ma carità, va. Cazzo, il postaccio più equivoco, cazzo, uno dei postacci più equivoci, per carità. Poi, non so se hai mai visto quei filmati girati a Filadelfia. Girati? A Filadelfia. Aggiungi i dettagli. Vabbè. Ci sono viale, dove stazionano dei poveracci. No, già li trovi. Ah, tipo quelle tendopoli, baraccopoli, ho sentito che da poco li stavano anche cacciando via dalle strade. Cioè uno, oltre che essere povero, cosa può fare di meno? Cioè, non a casa, non c'è un coso. Mi pare di aver letto che li stavano sfollando. Vabbè, perché sai, sono le strade, sono brutte, non sono pulite, non sono... Vabbè, già capito. Sì, dicevo, questa persona guai a fare una battutina anche contro gli Stati Uniti, è una cosa, proprio una forma di idolatria pura, io non ho capito da dove derivi, visto che tanto a lui non lo fanno votare. Oh yeah. Gente pericolosa, dai. Gente pericolosa. Adesso poi stanno portando avanti tutta una serie di operazioni nel loro posto di comando, poi la pellaccia di altri, sempre per procura, come si dice, no? Yes, vabbè, allora è tarda per queste cose, in effetti. Ok, Antonese, se all'ascolto ti saluto. Gianni, buonanotte, buon tutto e ci intendimmo. Bene, Antonella forse si è spostato, magari. Oh, yeah. E niente, dai. Grazie per la piccola chiacchierata, dai. Ci sentiamo in ore più consone. È come una burrotto. Gioia. Va bene, dai. Buona, buon proseguimento di serata e ci aggiorniamo, dai. Qui stazione dalla stazione. Chiudiamo tutto, dai. Ci tendi su. Oh già, lo sai che nonostante tu sia quasi fondo scala, io sento il fischiettino sotto di questi che parlano. Capito, sono sotto il 9, pure sotto il 6, appena appena. Cosa incredibile. Va bene, ciao già, buonanotte, buon tutto. Ciao gli ascoltori, ciao. Eia, ciao Marco, ciao Antonello e le orecchiette però, ce l'hai. Guten Nacht. Nee, das war jetzt zu spät.